Magazine 24, la rassegna dei settimanali. A cura di Mauro Meazza. Buona domenica a tutti da Magazine 24, l'appuntamento con i settimanali, con i mensili italiani e stranieri, questa rassegna stampa in cui cerchiamo di pescare sia, come diciamo già ieri, le curiosità, ma sia anche qualche cosa da leggere, anche qualche consiglio per la settimana a venire, trattandosi appunto della giornata domenicale. Allora, dovete sapere che si aprirà da domani la Social Media Week. Il termine è ormai quasi obbligatoriamente in inglese, ma per dire che cosa? Che è la settimana per spiegare i social media. I social media sono un termine molto generico, insomma, l'utilizzo di internet in modo sociale, quindi da Facebook a tutti gli altri utilizzi che si possono fare con la rete per, insomma, tenersi in contatto, poiché la rete è sempre più dilagante, sempre più importante nella vita quotidiana di tutti noi. Proprio il fatto che a Roma si apra questo evento, questa settimana di divulgazione dei social media, ci sembrava interessante da segnalare. Anche perché della questione si occupa Mauro Munafò sull'Espresso di questa settimana. Il titolo dell'articolo è "Il web logora chi non ce l'ha", riprendendo, lo ricorderete, una famosa frase che era però attribuita al potere, che logora chi non ce l'ha, e spiega già nel suo esordio: ancora nel 2011 metà degli italiani ignora internet. È un danno che fanno a se stessi e a tutto il paese. Parte a Roma una settimana di divulgazione per i privati, le aziende e le istituzioni. Gli eventi sono diversi, vengono segnalati tra l'altro in un box che accompagna appunto questo articolo dell'Espresso. Si tratta in sostanza di un festival che dal 7 all'11 febbraio, scrive lo stesso Munafò, animerà la capitale con incontri, dibattiti, dimostrazioni, tutti rigorosamente gratuiti. Ci sono più di 130 eventi in una trentina di location, in una trentina di sedi sparse per Roma, con poi una zona che viene chiamata zona rossa in centro tra Piazza del Popolo e Piazza Venezia, per portare la rete tra la gente e non fermarsi quindi ai soli addetti ai lavori e ai tecno appassionati. Insomma, uno spirito divulgativo molto forte. Tra l'altro, questa settimana dei social media sarà assolutamente internazionale, perché in contemporanea a questi eventi a Roma la manifestazione si terrà anche in altre 8 città: San Paolo in Brasile, New York e San Francisco negli Stati Uniti, Toronto in Canada, Istanbul in Turchia, Hong Kong in Cina e poi Parigi e Londra. È la seconda edizione della settimana dei social media e quindi è un'occasione, insomma, specialmente per chi naturalmente vive a Roma o nelle vicinanze di Roma, per avvicinarsi o per conoscere di più del mondo digitale. Ve ne parlo anche perché, proprio in coincidenza con questa settimana dei social media, il Sole 24 Ore presenterà in edicola da giovedì una nuova collana. Giovedì è un po' il giorno tecnologico, il giorno in cui il Sole 24 Ore presenta anche il suo inserto Nova 24, che è tutto dedicato alla tecnologia, alle nuove tecnologie, ai nuovi media, ai nuovi mezzi di comunicazione. E quindi partiamo da giovedì prossimo con questo Fare Business con i Social Network. Sono 6 volumi. La sostanza, lo spirito di questi volumi è spiegare in un modo sufficientemente sintetico e contemporaneamente molto semplice come si possono sfruttare le potenzialità di mezzi come Facebook, Twitter, YouTube e altro ancora. Sono 6 volumi e saranno appunto in vendita, saranno raggiungibili acquistando semplicemente il nostro quotidiano e aggiungendo poi il prezzo del volume, che sarà di 9,90 euro. Il primo volume è dedicato, e non poteva essere altrimenti, viene da dire, a Facebook, che è probabilmente il social network più conosciuto, più diffuso in tutto il mondo. Poi ci sono appunto gli altri volumi dedicati agli altri social media, come sono Twitter o YouTube o altri ancora. Andiamo poi, visto che stiamo guardando un po' al futuro, siamo arrivati a giovedì della settimana che si aprirà domani, andiamo ancora più avanti se guardiamo a un articolo di Vita che ci fa cambiare completamente argomento. Parliamo del Festival di Sanremo. Il Festival di Sanremo quest'anno è stato accompagnato dai magazine con un notevole dispiego di forze, se ne è cominciato a parlare già nelle scorse settimane. Adesso Vita lancia quasi una polemica preventiva, verrebbe da dire, perché Antonio Sgobba si occupa del televoto. Il televoto, per chi ha seguito con una certa attenzione, con una certa passione il Festival dell'edizione del 2010, il televoto è stato foriero di notevoli polemiche e infatti polemiche che sembrano destinate a ripetersi, a replicarsi anche quest'anno nell'edizione 2011. Questo è l'attacco dell'articolo di Sgobba su Vita. Caro spettatore di Sanremo, sappi che il tuo giudizio potrebbe valere quasi niente. Suonerà più o meno così l'avvertenza con cui la RAI, in occasione del prossimo Festival della Canzone Italiana, accompagnerà l'invito a esprimere la propria preferenza da casa, via telefono fisso, via cellulare, attraverso l'ormai celebre strumento del televoto. Strumento, tra l'altro, ricorda Sgobba, grazie al quale lo scorso anno il Festival si concluse tra le polemiche per il sospetto di blocchi di voti pilotati dai call center. E ricorderete che all'annuncio del secondo posto per la coppia formata da Pupo e Emanuele Filiberto, secondo posto decretato appunto dagli SMS da casa, ci furono gli orchestrali che lanciarono gli spartiti e le associazioni di consumatori che insorsero, chiedendo regole più severe contro le troppe chiamate arrivate dalle stesse linee telefoniche. Bene, un anno dopo lo scandalo, questo spiega appunto Antonio Sgobba su Vita, e a 10 giorni in sostanza dall'evento la RAI fa sapere che con nonchalance il regolamento del televoto non è ancora stato definito. Allora cosa succederà? Ricorderanno, delle scritte in sovraimpressione piuttosto che i conduttori, ricorderanno i telespettatori che l'azienda non garantisce che il televoto possa essere, come dire, condizionato da eventuali irregolarità. Nel caso i brogli venissero scoperti, per carità, eventuali brogli venissero scoperti, i concorrenti avvantaggiati saranno puniti, però prima non sarà possibile bloccare gli eventuali, scrive sempre Sgobba, sabotatori della volontà popolare. Non ci sono appunto ancora queste indicazioni di regolamento e questo fa sì che il televoto si svolgerà praticamente come l'anno scorso, quando appunto le cose non sono andate benissimo. Il televoto è un business però, e questo lo ricorda appunto Vita, e dice noi non sappiamo neanche, spiegano le associazioni dei consumatori, quante sono effettivamente le chiamate in totale, come vengono distribuite, non sono diffusi dei numeri, e invece il business del televoto, anche, soprattutto a Sanremo, è molto importante. L'anno scorso Avvenire fece uno scoop e riuscì a scoprire quali sono questi valori. Erano stati espressi 3 milioni e 600 mila televoti, il costo era di 75 centesimi di euro a voto, quindi il totale faceva 2 milioni e 700 mila euro. Il giro d'affari complessivo del televoto in Italia, raccolgo sempre da Vita, si aggira attorno ai 30 milioni di euro. Di questi 30 milioni di euro praticamente Sanremo fa da solo quasi il 10%. E le varie, non solo le compagnie telefoniche, ma naturalmente anche la RAI, le emittenti, insomma, si avvantaggiano di questo movimento di denaro che però, come appunto racconta Vita, non è stato regolato in modo da scongiurare, da cercare di limitare eventuali abusi. E allora, visto che abbiamo parlato un po' di business, abbiamo parlato di cifre, di denaro che circola, in questo caso appunto attorno alla nostra passione per il Festival di Sanremo e al televoto in generale, restiamo ancora per un istante su un argomento vicino al lavoro e al business. Da domani, con il Sole 24 Ore in edicola, trovate Azienda Facile, secondo volume, è una collana che stiamo facendo che serve praticamente ad aiutare tutti coloro che hanno un'attività o che hanno incarichi magari in particolari nelle aziende dove operano. Questo secondo volume, tra l'altro, è abbastanza importante perché si occupa di incentivi alle imprese e, come tutti sappiamo, o diciamo come tutti quelli che si devono occupare della materia sanno, gli incentivi alle imprese sono abbastanza complessi da spiegare, da illustrare, ma anche poi da riuscire ad avvicinare. Qualche volta appunto vuoi la burocrazia, vuoi le più diverse difficoltà che possono frapporsi, impediscono a un'attività di ottenere gli incentivi che magari sperava di avere. Allora questo è il volume che noi presentiamo da domani, è in edicola con il Sole 24 Ore, è, ripeto, il secondo volume della collana chiamata Azienda Facile, lo trovate da domani con il Sole 24 Ore. Magazine 24. Bentornati a Magazine 24. L'interruzione per il traffico mi ha richiamato alla memoria una statistica che ho trovato su Nouvel Observateur di questa settimana, che riguarda appunto la sicurezza stradale e, ohimè, soprattutto il numero delle vittime della strada in vari paesi europei. La Bulgaria è il paese più funestato, perché ha un tasso di 13,2 vittime ogni 100.000 abitanti, seguito dal Portogallo con un valore di 10 ogni 100.000, però l'Italia non si colloca molto bene, perché è appena dietro il Portogallo con 9,6. La Francia è al 7,5, il paese dove si registrano meno vittime per incidenti stradali è la Svizzera, a livello europeo, con nemmeno 5 vittime statisticamente, appunto, ogni 100.000 abitanti. Tra l'altro, la stessa Organizzazione Mondiale della Sanità è ritornata di recente a lanciare l'allarme, appunto segnalare l'importanza di delle politiche di prevenzione, degli inviti alla prudenza, come inviti che non sono mai troppi, come testimoniano questo tipo di classifiche, come quella riportata da Nouvel Observateur questa settimana. Cambiamo decisamente argomento, restiamo in qualche modo sulla cronaca, perché tutti abbiamo letto di queste morie improvvise di uccelli che si sono registrate negli Stati Uniti, e Focus di questo mese si occupa del tema di queste morie, appunto, in un articolo dal titolo divertente Piovono tortore, e non solo, perché migliaia di uccelli, ma anche di pesci, sono stati trovati morti un po' in ogni angolo del mondo, Italia compresa. Allora si cerca di capire che cosa è successo. Naturalmente le ipotesi che sono state fatte sono le più diverse. Sembra che, ad esempio, poco prima della caduta di questi stormi si siano uditi forti boati che avrebbero svegliato gli uccelli dal riposo notturno, li avrebbero disorientati, hanno cominciato a volare a quote troppo basse, e poi da lì sono derivate le collisioni contro edifici, alberi, linee elettriche, eccetera. L'ipotesi, appunto, c'è un'ipotesi di fuochi d'artificio, un'ipotesi realistica che però non spiegherebbe tutto quello che non riuscirebbe a spiegare effettivamente il fenomeno. C'è un però, forse, al di là di tutte le teorie che sono circolate, da quelle dell'ingestione di sostanze tossiche, eccetera, c'è qualche cosa che forse ci può confortare. Questo tipo di fenomeni si è un po' sempre registrato. Ad esempio, su Focus si ricorda che a marzo del 1904 ci fu una simile moria nel Minnesota, e morirono circa 1,5 milioni di uccelli. Le indagini poi accertarono che queste morti erano avvenute per traumi che avevano prodotto emorragie negli organi vitali. Un guardiano notturno aveva visto che questi uccelli si schiantavano contro le case e cadevano al suolo. Nella notte c'era stata poi un'intensa nevicata. I volatili praticamente stavano migrando, nella loro migrazione, anche per questo clima particolarmente rigido, erano stati disorientati dal buio, dalla tempesta di neve, e attirati dalle luci delle città. Però attirati nelle città avevano poi finito per battere contro gli ostacoli, erano oppure caduti a terra sfiniti o erano precipitati. C'è un'ornitologa, si chiama Melanie Driscoll, viene riportata da Focus, ha ricordato che ogni anno soltanto negli Stati Uniti muoiono 5 miliardi di uccelli. Alcuni di questi decessi si concentrano in determinati periodi, dunque non ci sarebbe poi nulla di così insolito, di così fortemente insolito in queste morie che abbiamo visto accadere anche di recente. Questo racconta Paolo Toselli su Focus di questo mese. E ancora da Focus invece una storia molto avvincente, molto inattesa: la civiltà dell'arco, perché effettivamente l'arco è una delle armi più importanti, più determinanti per la vita dell'uomo e anche per la crescita della civiltà. Innanzitutto bisogna sapere, e lo racconta appunto Focus, che l'arco non è affatto uno strumento semplice, in realtà va costruito con una notevole perizia, perché deve avere la sufficiente elasticità ma anche la sufficiente sufficiente robustezza da poter scagliare, da potergli permettere di scagliare le frecce. Allora, da quanto tempo sappiamo come si costruisce un arco? L'arco più antico è stato trovato in Danimarca, era costruito con un ramo di olmo e ha circa 7000 anni, però gli studiosi, ci sono degli studiosi anche di questa materia, spiegano che l'uso dell'arco potrebbe essere più antico. Probabilmente circa 16.000 anni fa i nostri antenati hanno cominciato a usare dei bastoni più corti per scagliare delle lance, e poi da lì la rivoluzione dell'arco. Perché l'arco è stato rivoluzionario? Perché spiega sempre Giuseppe Bianchi, che è uno studioso oltre che un maestro di tiro con l'arco, l'arco è stato rivoluzionario perché ha consentito di colpire bersagli che erano lontani decine di metri, quindi mettendosi al sicuro dalla preda, e poi naturalmente quando se n'è fatto invece un uso bellico, al sicuro dal nemico. I popoli mediorientali, lo sappiamo, ce l'hanno detto a scuola, divennero maestri nell'uso dell'arco a cavallo. Ad esempio i persiani riuscivano a scagliare frecce al galoppo mirando agli inseguitori, e a ciò si doveva gran parte della loro potenza bellica. Portava un arco l'uomo del Milaun, la mummia che possiamo ancora vedere al museo di Bolzano, era vissuta oltre 5.000 anni fa, aveva un arco in legno di tasso. Questo arco indica già una conoscenza molto approfondita dei materiali, perché infatti il legno di tasso è particolarmente adatto per poter distinguere, diciamo, la parte flessibile dell'arco da quella che invece non deve essere flessibile. E poi naturalmente la grande tradizione degli arcieri inglesi. È stato calcolato ad esempio che nella battaglia di Agincourt del 1415 gli arcieri inglesi riuscirono a scaricare sui francesi 20.000 tonnellate di frecce, calcolando anche quelle che erano state tirate e poi recuperate magari più di una volta. Avevano un'abilità e una rapidità sorprendente, perché addirittura veniva loro richiesto per diventare arcieri dell'esercito inglese di saper scagliare 12 frecce in un minuto, quindi con una rapidità di incoccare la freccia e poi di scagliarla notevole. Una cosa particolare che sempre traggo da Focus, il fatto che spesso vediamo magari nei film, nelle ricostruzioni storiche, gli arcieri tutti allineati in un'unica fila, ecco, questo sappiamo che non può proprio essere successo, perché in questo modo chiaramente gli arcieri avrebbero tirato tutti alla stessa distanza e non sarebbero stati utili. Invece gli arcieri si schieravano quasi sempre come una doppia V, in modo da coprire una superficie maggiore e diventare chiaramente molto più pericolosi quando scagliavano le loro frecce. E allora, visto che parliamo di storia, vi do un'ultima segnalazione di qualcosa che di storico verrà offerto in edicola a partire da domenica prossima. Si tratta delle grandi religioni, sono dei volumi dedicati proprio alla storia delle grandi religioni, e in sei puntate, dal cristianesimo all'ebraismo, all'islam, al buddismo. Ne parleremo poi meglio nelle prossime puntate di Magazine 24. Ripeto, questo volume verrà offerto a partire da domenica prossima. Io invece ringrazio per questa mattina Carmelo Lauricella, che mi ha assistito in regia, ringrazio come sempre Anita Panizza, che mi ha aiutato a preparare questo programma. Vi ricordo che se volete risentire questo programma, così come se volete trovare delle informazioni sui programmi di Radio 24, potete sempre consultare il nostro sito www.radio24.it. lì trovate appunto tutte le informazioni che vi servono, trovate il nostro palinsesto, trovate anche, se volete, le email a cui potete inviare i vostri messaggi, i vostri pareri sui programmi di Radio 24. Io torno ad augurarvi naturalmente una buona domenica, e per quanto mi riguarda, con la nostra rassegna stampa dei settimanali, vi do appuntamento a sabato prossimo.